dell'Istituto Trentino di Cultura, professor Fabio Ferrari, che del direttore dell'Istituto di Scienze Religiose in Trento, professor Iginio Rogger, impongono a me di fare gli onori di casa e di porgere il più cordiale saluto a tutti i presenti. Anzitutto ai relatori, in particolare al professor Yves-Marie Duval, che viaggiando in aereo è riuscito a sfuggire agli scioperi dei ferrovieri francesi. Agli amici docenti di letteratura cristiana antica che hanno accolto l'invito a partecipare al convegno, ai giovani studiosi della stessa materia che pure hanno accolto con entusiasmo la nostra proposta di partecipazione, agli amici dell'Istituto di Scienze Religiose e ai docenti del nostro corso superiore di Scienze Religiose che ormai è entrato nel decimo anno accademico. Infine, ma l'immagine qui è quella dell'inclusione dei relatori, che va dai relatori al principale coordinatore dell'iniziativa odierna, il saluto più caro va all'amico Claudio Moreschini, che ha la docenza presso l'Università di Pisa, affianca da 10 anni l'insegnamento della letteratura cristiana antica presso il nostro corso superiore di scienze religiose. Dobbiamo infatti alla sua determinante e continuativa presenza a Trento se abbiamo potuto dedicare alla letteratura cristiana antica non episodiche occasioni di studio e di approfondimento, concretizzate tutte con la sollecita pubblicazione degli atti. Ricordo al riguardo il volume su Gregorio Nazianzeno, teologo e scrittore, pubblicato dalle edizioni Ioniane di Bologna, e quello sulla traduzione dei testi religiosi, edito nell'aprile scorso dalla Morcelliana di Brescia, che sta avendo questo volume un imprevisto successo anche sul versante delle vendite. Ma non dimentico il convegno sui martiri della Val di Non e la reazione pagana alla fine del IV secolo, coordinato nel 1984 da Antonio Quacquarelli, un fedelissimo amico dell'Istituto che ho il piacere di salutare ancora una volta tra noi, e da Iginio Rogger. A questo punto devo dare lettura del telegramma inviato dal Presidente della Giunta Provinciale, dottor Caro Andreotti, che testimonia cordiale partecipazione e attenta considerazione per i programmi dell'Istituto. Concomitanti impegni precedentemente assunti, vuol dire il bilancio per il 96, mi impediscono di presenziare al convegno sul tema motivi letterari esegetici in Gerolamo. Desidero comunque ringraziare per cortese invito e inviare il mio pensiero di vivo apprezzamento e stima. Cordialmente, dottor Carlo Andreotti, Presidente Provincia Autonoma di Trento. Prima di dare la parola al professor Moreschini per illustrare i contenuti e le finalità del convegno odierno sui motivi letterari ed esegetici in Gerolamo, che, consentitemi questo cenno personale, costituisce per me un sogno che si è finalmente realizzato, do una breve comunicazione di servizio comunicando che le presidenze delle varie sezioni di lavoro sono state assegnate così. Questa mattina al professor Claudio Moreschini, oggi pomeriggio al professor Roberto Palla, domani mattina al professor Antonio Quacquarelli, domani pomeriggio al professor Antonio Nazzaro. Rinnovando il saluto e il ringraziamento del Presidente ITC e del Direttore dell'Istituto di Scienze Religiose, a nome loro dichiaro aperto il convegno sui motivi letterari ed esegetici in Gerolamo e prego il professor Moreschini di assumere la presidenza dei lavori e di illustrarne scopi e finalità. Grazie delle parole dell'amico, e quindi non insisterò più oltre su questa collaborazione che già con tanta simpatia ha presentato Giovanni Menestrina. È d'obbligo ringraziare anche in assenza coloro che hanno permesso l'organizzazione di questo convegno, come logico, cioè l'Istituto di Scienze Religiose, sia nei nomi appunto del Presidente e del Direttore, Monsignor Professore Iginio Rogger, nel nome del segretario Giovanni Menestrina e di tutti coloro che attivamente, concretamente ci hanno dato una mano per la sistemazione, per l'ordine, come dire, delle cose che devono essere di volta in volta affrontate. Poche parole, dicevo, devo dire che per chi organizza un convegno di studi, e vorremmo che fosse di studi soprattutto, non un convegno un convegno che ha come scopo rapporti di altro genere o interessi non scientifici, dico, per chi organizza convegno di studi, poter contare su una struttura interessata ed attiva come l'Istituto di Scienze Religiose è un grande vantaggio, diciamo, è una grande sicurezza, in quanto così questi questi nostri lavori che si susseguono già da più anni hanno potuto essere realizzati senza difficoltà. Di tutto questo va dato atto all'Istituto di Scienze Religiose, soprattutto in un momento come l'attuale in cui l'università italiana purtroppo versa in difficili situazioni a causa della cronica mancanza dei fondi, mancanza che poi si aggiunge anche talvolta all'errato, come dire, alla criticabile distribuzione dei fondi quando ci sono. Naturalmente è chiaro che ciascuno di noi è portato a criticare quello che fanno gli altri e pensa che quello che invece fa lui sia fatto bene, però certo quando si vedono così il proliferare dei bimillenari che implicano spese gigantesche e magari altre iniziative più valide scientificamente devono fare i conti, proprio il caso di dire, giornalmente con le difficoltà, ecco, questo dispiace vedere che nella nostra università la situazione è quella di cui vi stavo dicendo. L'Istituto di Scienze Religiose fortunatamente è indipendente e l'organizzazione di convegni è una costante in questo istituto, convegni che sono di religione, di problemi religiosi, problemi storici, problemi filosofici anche. Io mi auguro che questi nostri lavori di letteratura cristiana antica e più precisamente questo di oggi e domani su Gerolamo non sia da meno dei convegni precedenti organizzati dall'Istituto, ricordo quello di pochi mesi fa, proprio quello sul Concilio di Trento. Illustrare le finalità di questo convegno è un po' assurdo, diciamo, nei confronti dei colleghi che già lo sanno meglio di me quali sono le problematiche di Gerolamo e che cosa si può fare. Quindi, senza dubbio, sembra che stia a ripetere quello che è ovvio, e questo rientra però nelle regole della retorica e credo che anche il professor Quacquarelli me lo permetterà, insomma, un competente come lui mi permetterà, appunto, fa parte della regola. È un fatto che di Gerolamo, nonostante tutto, non se ne può fare a meno, sembra, nella lettera, per chi studia il cristianesimo antico. Le critiche sulla figura di Gerolamo non sono mancate, non mancano tuttora, e vengono anche da studiosi di prim'ordine, insomma, di cui non faccio il nome, critiche che noi sappiamo bene, o l'avere plagiato, come si usa dire, o l'aver saccheggiato gli esegeti precedenti, o l'aver fatto passare per suo quello che invece suo non era. E però, ciò nonostante, ci si accorge che, ecco, non si può fare a meno di lui e che certe sue esegesi, o per un verso o per l'altro, debbono essere conosciute, insomma. E quello che ho detto riguardo all'esegesi può essere ripetuto, anzi deve essere ripetuto nell'ambito della letteratura, dell'aspetto letterario, come per Tertulliano, in fondo, sia di Gerolamo che di Tertulliano spesso si dice male, ciascuno di noi ha letto forse qualche parola di critica anche forte nei confronti del carattere di Gerolamo, critiche anche giustificate, ma pazienza il carattere anche nei confronti di quello che è la sua arte, si dice un'eccessiva elaborazione retorica, un eccessivo accumulo di floscoli che tendono così soprattutto al pathos. Questo può essere vero, però non se ne può, ripeto, Gerolamo è un grande scrittore, così come in fondo lo è stato Tertulliano. Lo dico, sono parole così certo banali, ma vorrei indicare una cosa, che effettivamente a tutt'oggi mi pare che non esista uno studio d'insieme completo, totale, su Gerolamo, che le vecchie biografie, i vecchi contributi di Gritzmacher o Cavallera a tutt'oggi non sono stati sostituiti, almeno a me non pare, non ho presente niente di particolare, nonostante che abbondino i contributi parziali. Sì. E questo è strano, nonostante che in fondo, non so, come scrittori, certo, ben più densi di Gerolamo sul piano del pensiero, come può essere Origene, ecco, su Origene ci sono tuttora anche studi d'insieme che vengono incontro alle nostre esigenze. Quindi concludo qui, mi auguro che i nostri contributi, i contributi dei colleghi, e certo, sono sicuro, non mi auguro, sono certo che verranno incontro ad affrontare queste mancanze, queste lacune. Chissà se da questo incontro non potrà venire qualche stimolo per, appunto, per uno studio più generale di cui mi pare che si senta tuttora la mancanza. E mi pare che non sia il caso di dire altro se non di ringraziare sia i colleghi che molto simpaticamente sono venuti, sia gli ospiti che ci hanno dato il loro sostegno e gli studenti del corso o altre persone interessate che vedo qui presenti. Il tempo stringe, abbiamo davanti a noi relazioni che mi hanno già detto essere impegnative ed è bene che siano così, perché non mi piace dire ai colleghi sbrigati, bisogna arrivare alla conclusione. No, ognuno deve dire quello che si sente, quello che trova opportuno.